Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Subito la mail alla quale scrivere, descrivendo, mi raccomando, casi che possano coinvolgere più persone, una moltitudine di persone, non soltanto chi scrive. La mail è unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore, nel quale affronto solo ed esclusivamente temi di legalità, sicurezza e criminalità organizzata. Devo ammetterlo, la mia grande passione da 3 anni al Sole e a Radio 24. Oggi trattiamo di un caso che sarà accaduto e probabilmente accadrà a chissà quanti di noi, a chissà quanti di voi, vale a dire un'ipoteca iscritta su una casa acquistata e dover aspettare mesi, mesi e mesi per la cancellazione della stessa. Insomma, come dire, è un vero e proprio abuso, direi quasi alla pazienza degli italiani. E la storia ce la facciamo raccontare dal radioascoltatore che ci ha mandato la mail e chissà quanti di voi si ritroveranno nella sua storia. Buongiorno Giovanni Politoni. Buongiorno Roberto e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, ci racconti la storia che l'ha visto protagonista. La vicenda inizia in aprile, quando io ho inviato formale richiesta per una cancellazione dell'ipoteca che gravava sul mio immobile e l'operatore, l'impiegato, mi ha detto che sarebbero corsi 60 giorni e 120 euro di costo. E io non ho obiettato sui 60 giorni e mentre ho obiettato sui 120 euro perché ritenevo, dopo aver letto il decreto Bersani, che alcun onere dovesse essere a carico del richiedente. Comunque a me interessava la cancellazione e siamo andati avanti e quindi ho pagato questi 120 euro. Questo era in aprile e i 60 giorni scadevano in giugno. Io mi sono presentato in banca per il ritiro, l'operatore mi ha detto che c'erano state delle difficoltà e che quindi la cancellazione non era avvenuta. Sono ritornato in luglio più volte, la risposta è stata la stessa, in agosto, e così siamo arrivati ad ottobre, quando praticamente per l'ennesima volta io mi sono imbattuto in questo muro di gomma dove non avevo risposta se non da parte dell'operatore, che lui non sapeva cosa farmi. Purtroppo c'erano dei problemi, non capivo quali fossero questi problemi, lui non sapeva dirmeli, come se, appunto, non lo so, non mi guardasse. Lui per me era il, rappresentava l'istituto in questione, certo, per cui certo. E quindi eravamo in ottobre, fin tanto che poi ho inviato i primissimi di novembre questa mail a lei, appunto, dottor Garullo, e nella quale lettera io chiedevo se poteva aiutarmi circa la risoluzione di questa cosa. Certo, e l'aiuto l'abbiamo dato volentieri, ripeto, non perché fosse il suo caso, ma perché era rappresentativo, ripeto, di migliaia di casi che puntualmente accadono ogni anno in Italia. I Politoni, ma com'è andata a finire poi? È andata a finire che il giorno stesso che io sono stato contattato dalla sua redazione, la sera per precisione, sono stato chiamato dal direttore generale di questa banca, che mi ha porto le scuse senza, diciamo, una resa senza condizione. Insomma, questo l'ho apprezzato perché lui non ha tentato di accampare nessuna pretesa, si è assunto tutte le responsabilità e mi ha detto che avrebbe provveduto l'indomani per inoltrare al notaio la richiesta di cancellazione, cioè vale a dire che comunque fino a quel momento non era avvenuto nulla, nonostante la mia richiesta, nonostante il prelievo dei soldi. Dicevo, appunto, si sarebbe adoperato, così è stato, nel senso che poi mi è stata inviata una mail, scusa, nella quale c'era scritto il numero il protocollo della richiesta che era stata inoltrata al notaio. Bene, quindi il caso si avvia a soluzione. Lei è stato molto signorile, non ha citato il nome della banca, però io la cito, ma non perché voglia criticare un atteggiamento, diciamo, comunque così commendevole, perché il ritardo c'è stato, ma perché, chi segue la mia trasmissione lo sa, io do sempre la parola a tutti, anzi a volte inseguo le persone che possono e debbono apparire in contraddittorio. Ebbene, noi abbiamo cercato di parlare con il direttore generale della Banca di Credito Cooperativo. Avete presente quella del tormentone "La mia banca è differente"? E l'agenzia di Roma che era coinvolta, ma non ci hanno voluto parlare. Qual è la giustificazione? Intanto non ci hanno raccontato che la sera stessa il caso, chissà perché, era stato risolto. E poi perché non avevano nulla da aggiungere, in quanto appunto il caso era stato risolto. Con una battuta, Politoni, la sua banca non mi sembra differente allora. Direi proprio di no, infatti questo l'ho fatto presente al direttore, perché io in quel momento mi sono sentito veramente solo, perché l'operatore, nonostante, ecco, ripeto, poi vorrei anche chiarire l'aspetto del prelevamento dei soldi, perché se è dovuto o no. Certo, ma adesso lo affrontiamo, a me sarebbe piaciuto affrontarlo, ripeto, con la Banca di Credito Cooperativo, ma il nostro cortese invito è stato rifiutato. Passiamo la parola. Lei chiedeva spiegazioni, noi abbiamo chiamato una delle autorità in materia, Elio Lannutti, che è presidente dell'Adusbef. Buongiorno Lannutti. Buongiorno, un saluto anche e le scuse al signor Politone da parte dell'Adusbef. Prego. Perché queste banche, qui davvero noi siamo nei muri di gomma, nella Repubblica delle Banche, se mi si permette, io non voglio tirare in ballo, per carità, chi controlla e invece non controlla. Qui si tratta, insomma, di una banca, questo slogan è differente, invece come le altre. Ma perché le banche si comportano in questo modo? Noi abbiamo fatto centinaia di denunce, di segnalazioni, cioè qui c'è un decreto Bersani, c'è una legge che prevede entro 60 giorni la cancellazione automatica dell'ipoteca senza un centesimo di euro. Ecco, lei è entrato nel vivo, senza un centesimo di euro. Allora, affrontiamo il tema dei 120 euro che sono stati chiesti al nostro radioascoltatore e, ripeto, chissà quanti altri. Del resto lei stesso lo sta confermando, no? Con migliaia di denunce fatte. Ecco, quei 120 euro sono legittimi o illegittimi? Sono illegittimi e devono essere restituiti con le scuse e con i dovuti interessi. Lo ripeto, ma perché accadono queste cose? Perché chi controlla va a braccetto con i controllati. Noi abbiamo l'istituzione maggiore in Italia, la Banca d'Italia, che rispetto a questi casi dovrebbe intervenire e sanzionare i comportamenti. Purtroppo non sanziona, purtroppo continua ad andare a braccetto con le banche. E ci sono, lo ripeto, davvero migliaia di casi. Noi ci ricordiamo la surroga, la portabilità del mutuo doveva essere gratuita, la cancellazione dell'ipoteca deve avvenire automaticamente senza spese entro 60 giorni. Le banche continuano a perpetrare quotidiani abusi, soprusi, noi li denunciamo e qui, ripeto, facciamo un appello anche in un momento così difficile dove il governo fa il decreto salva banche e non fa il decreto salva famiglie. Banche che hanno, lo vediamo tutti, lo vediamo da altre denunce che ci arrivano, chiedono la revoca degli affidamenti con un preavviso di 24 ore. Le banche vengono aiutate dal governo, però hanno una restrizione del credito, non concedono più crediti e questa situazione di illegalità, di abusi, di soprusi deve finire. Noi ecco, ringraziamo anche Radio 24 e anche il nostro gentile interlocutore, perché bisogna continuare a denunciare, bisogna continuare a segnalare. Non dobbiamo più essere sudditi dell'arbitrio degli arbitri quotidiani delle banche. Ha fatto bene quindi il nostro radioascoltatore. Ecco, ma infatti io volevo arrivare proprio a questo, Lannutti, perché ora non so come si vuole comportare i Politoni, però io direi questo, caro radioascoltatore, lei faccia la domanda di restituzione dei 120 euro alla sua banca e invito ancora una volta da queste frequenze la banca di credito cooperativo ad intervenire in trasmissione, perché onestamente si fa più bella figura e si possono spiegare le proprie ragioni. Chi assente, a mio giudizio, ha sempre torto. Prego Ippolitoni. Volevo dire che nell'email che mi è giunta all'indomani della telefonata del direttore generale con la quale mi si allegava la richiesta di cancellazione ufficiale, c'era anche scritto nel corpo del messaggio che mi sarebbero state restituite le 120 euro che in aprile mi erano state addebitate dal mio conto corrente. Bene, questo è molto corretto che lei l'abbia detto, benissimo, quindi non c'è bisogno di fare alcuna domanda. Per fortuna nel contempo si sono resi conto anche, oltre al disservizio e al ritardo, di aver chiesto una somma che non dovevano chiedere. Ma quanti l'hanno chiesta, mi domando io? E quindi allora aspettiamo ancora una volta la risposta della banca. Io ringrazio il nostro radioascoltatore, ringrazio Elio Lannutti che sarà ancora sicuramente nostro ospite, grazie in regia Valeria Bernardi e in studio Laura Faggin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.